Mi raccontò che sua moglie era una brava donna e che l'amava tanto, ma è cattolica, francese. E un'altra occhiata al padre. Un tempo ha lavorato a servizio. È tutto, a parte il fatto che a casa ho il suo indirizzo. Lui l'ha scritto per me e me l'ha consegnato. Bene, bene, gemette lo squire. Ora è tutto finito. Tutto finito, è tutto passato. Non lo biasimeremo, no? Vorrei che me l'avesse detto. Lui e io a vivere con un tale segreto in uno di noi. Non c'è niente ora che possa meravigliarmi, niente può stupirmi ancora, perché non si può proprio dire cosa alberghi nel cuore di un uomo. Sposato da così tanto tempo. E sedavamo qui insieme a mangiare, vivevamo insieme. Insomma, gli dicevo tutto. Troppo forse perché gli ho mostrato tutte le mie passioni e i miei malumori. Sposato da così tanto tempo. Oh, Osborne, Osborne, avresti dovuto dirmelo. Sì, è vero, convenne Mr. Gibson, ma direi che era consapevole di quanto voi avreste condannato una simile scelta. Però avrebbe dovuto dirvelo. Voi non ne sapete nulla, signore, ribatté aspro lo squire. Voi non sapete quali fossero i nostri rapporti. Non c'erano affetto e confidenza. Spesso ero irritato con lui. Ero arrabbiato perché era apatico, povero ragazzo, e lui si portava in testa un tale peso. Non consentirò alla gente di interferire e di giudicare me e i miei figli. E Roger poi? Lui sapeva tutto e me l'ha tenuto nascosto. Osborne evidentemente gli ha fatto promettere di mantenere il segreto, come ha fatto con me, affermò Molly. Roger non poteva farci niente. Osborne era bravo a convincere le persone e a conquistarle, commentò sognante lo squire. Mi ricordo, ma a cosa serve ricordare? È tutto finito e Osborne è morto senza avermi aperto il suo cuore. Avrei potuto essere tenero con lui, avrei potuto, ma ora lui non lo saprà mai. Ma possiamo indovinare quale fosse il desiderio più forte che nutriva alla fine, visto ciò che sappiamo della sua vita, osservò Mr. Gibson. Quale, signore? Fece lo squire con il terribile sospetto di cosa stava per accadere. Sua moglie deve essere stata il suo ultimo pensiero, no? Come so che era sua moglie? Voi pensate che sia andato a sposarsi con una donnaccia francese, una serva? Potrebbe essere tutta una fandonia, tutto inventato. Basta, squire. Non mi interessa difendere la sincerità o l'accuratezza di mia figlia, ma con il cadavere al piano di sopra. La sua anima con Dio. Pensateci due volte prima di dire altre parole frettolose che mettono in discussione il suo carattere. Se lei non era sua moglie, che cos'era? Vi chiedo scusa, non so neanche cosa dico. Ho accusato Osborne? Il mio ragazzo, avresti dovuto fidarti del tuo vecchio babbo. Era solito chiamarmi vecchio babbo quando ero un ragazzino non più grande di così, indicando con la mano una certa altezza. Non ho mai voluto dire che non fosse ciò che si desidera che sia adesso. La sua anima è con Dio, avete detto bene, perché sono certo che è là. Bene, squire, riprese Mr. Gibson, tentando di mettere un freno alle divagazioni dell'uomo. Per tornare alla moglie e al bambino. Sussurrò Molly a suo padre. Per quanto leggero fosse quel mormorio, colpì l'orecchio dello squire. Cosa? Esclamò, voltandosi di colpo verso di lei. Un bambino? Non avete fatto parola. C'è un figlio? Marito e padre, io non lo sapevo. Dio benedica il figlio di Osborne. Sì, che Dio lo benedica. Si alzò in piedi, con reverenza, e così fecero anche gli altri due. Egli giunse le mani come per un momento di preghiera, poi esausto, sedette di nuovo e tese la mano a Molly. Sei una brava ragazza. Grazie. Ditemi cosa devo fare e lo farò. Questo era rivolto a Mr. Gibson. Sono perplesso quanto voi, squire, rispose il dottore. Io credo pienamente a tutta la storia, ma penso debba esistere una conferma scritta che forse deve essere trovata subito prima di agire. Con ogni probabilità la si scoprirà tra le carte di Osborne. Volete darci uno sguardo immediatamente? Molly tornerà a casa con me e troverà l'indirizzo che le ha dato Osborne mentre voi siete occupato. Tornerà con voi? chiese lo squire agitato. Voi. Lei non mi lascerà da solo? No, sarà di nuovo qui stasera. In qualche modo la farò venire. Non ha abiti con sé se non quello che indossava quando è arrivata, e io ho bisogno del cavallo con cui è venuta. Prendete la carrozza, disse lo squire. Prendete qualsiasi cosa, darò io gli ordini. Tornerete anche voi? No, temo di no, non oggi. Verrò domani di buon'ora. Molly tornerà stasera quando sarete pronta a mandarla a prendere. Questo pomeriggio la carrozza sarà a casa vostra alle 3. Non oso guardare le cose di Osborne, le sue carte, senza che uno di voi sia insieme a me. Eppure non avrò pace finché non ne saprò di più. Farò portare da Robinson lo scrittoio prima di uscire. E potete farmi avere qualcosa da mangiare prima che me ne vada? Un po' alla volta gli convinse lo squire a prendere un boccone di cibo, e così, aumentando le sue forze fisiche e facendogli coraggio psicologicamente, Mr. Gibson sperò che cominciasse le sue ricerche durante l'assenza di Molly. C'era qualcosa di commovente nello sguardo malinconico con cui lo squire seguiva i movimenti della ragazza. Uno sconosciuto avrebbe potuto immaginare che lei fosse figlia sua e non di Mr. Gibson. Le condizioni di mitezza, afflizione, sollecitudine del padre e lutto non si palesarono mai con forza maggiore di quando egli le mostrò dalla propria sedia, dalla quale sembrava troppo debole per potersi alzare, e disse dopo il ripensamento: Portate i miei saluti a Miss Kirkpatrick, ditele che la considero come una della famiglia. Sarò felice di vederla dopo il funerale. Non credo di riuscirci prima. Non sa niente della decisione di Cinzia di lasciar Roger, osservò Mr. Gibson mentre se ne andavano. Ho parlato a lungo con lei ieri sera, ma era più risoluta che mai. Da quanto mi racconta tua madre, c'è un terzo innamorato a Londra che lei ha già respinto. Sono grato che tu non ne abbia proprio nessuno, Molly. A meno che quel tentativo abortito di farti un'offerta da parte di Mr. Cox tanto tempo fa possa essere definito quello di un innamorato. Non ne so niente, papà, disse Molly. Oh no, dimenticavo. Che sciocco sono stato. Immagina, non ricordi che fretta ebbi di spedirti a Hamley Hall la primissima volta che ci andasti? Tutto avvenne perché ero venuto in possesso di una disperata lettera d'amore di Mr. Cox indirizzata a te. Ma Molly era troppo stanca per trovare la cosa divertente o persino interessante. Non riusciva a liberarsi dalla vista del corpo disteso e coperto dal lenzuolo, che lasciava intravedere i contorni, tutto ciò che rimaneva di Osborne. Il padre aveva confidato eccessivamente sul moto della cavalcata e sul cambiamento di scenario uscendo dalla casa oscura. Si accorse del proprio errore. Qualcuno deve scrivere a Mrs. Osborne Hamley, disse. Credo abbia il diritto legale di portare questo nome, comunque sia. Deve essere informata del fatto che il padre di suo figlio è morto. Lo farei tu o ci penso io? Oh, per favore, fallo tu, papà. Come desideri. Ma di te potrebbe aver sentito parlare come di un'amica, mentre di me, un semplice medico di campagna, è molto probabile che non abbia mai udito neanche il nome. Se devo, lo farò io. A Mr. Gibson non piacque questa pronta acquiescenza, accordata per di più con così poche parole. Ecco la cuspide della chiesa di Hollingford, disse Molly poco dopo, mentre si avvicinavano al villaggio e scorgendo l'edificio fra gli alberi. Penso che non vorrà mai più perderla di vista. Sciocchezze, replicò suo padre. Insomma, hai ancora tutti i tuoi viaggi da fare e se davvero si diffonderà questa nuova moda delle ferrovie, come si dice, gireremo vorticosamente tutto il mondo, seduti su un bollitore del tè, come lo chiamava Phoebe Browning. Miss Browning ha scritto a Miss Hornblower un'eccellente lettera piena di consigli. Ne ho sentito parlare dai Miller. Miss Hornblower aveva intenzione di viaggiare con la ferrovia per la prima volta e Sally era molto preoccupata e le ha inviato delle indicazioni di portamento. Uno dei vari suggerimenti era di non sedersi sulla caldaia. Molly rise un po', come ci si aspettava facesse. Eccoci a casa, finalmente. Mrs. Gibson diede a Molly un caloroso benvenuto. Tanto per cominciare, Cinzia era caduta in disgrazia. Secondariamente, Molly giungeva dal centro delle notizie. In terzo luogo, Mrs. Gibson voleva molto bene alla ragazza a suo modo e le dispiaceva vedere il suo volto pallido e prostrato. Pensare che alla fine è accaduto tutto così all'improvviso, non che io non me lo sia sempre aspettato, è così esasperante. Proprio quando Cinzia ha lasciato Roger, se solo avesse aspettato un giorno. Cosa dice lo Squire di tutto questo? È affranto dal dolore, rispose Molly. Davvero? Non pensavo che approvasse così tanto il fidanzamento. Quale fidanzamento? Come? Quello di Roger con Cinzia, ovviamente. Ci ha chiesto come lo Squire ha reagito alla lettera che annunciava la rottura. Oh, ho sbagliato. Oggi non ha aperto la posta. Ho visto quella di Cinzia tra le altre lettere. Beh, questa la chiamo proprio una mancanza di rispetto. Non so, non credo fosse la sua intenzione. Dov'è Cinzia? È uscita in giardino, sarà qui subito. Volevo che svolgesse delle commissioni per me, ma si è nettamente rifiutata di andare in città. Temo stia gestendo i suoi affari proprio male, ma non mi permette di interferire. Detesto considerare queste cose con spirito mercenario, ma è irritante vederla buttare via due così buoni partiti. Prima, Mr. Henderson, ora Roger Hamley. Quando si attende l'arrivo di Roger? Ma forse la notizia che Osborne era sposato del bambino gli risolleverà il molare. Molly non aveva dubbi che Osborne fosse veramente e legittimamente sposato, né immaginava che il padre non avesse riferito né a sua moglie né a Cinzia i fatti di cui lei l'aveva messo al corrente la notte prima. Ma Mr. Gibson nutriva qualche perplessità sulla piena legalità del matrimonio e aveva preferito non parlarne alla moglie finché la regolarità del vincolo non fosse stata in qualche modo accertata. Perciò Mrs. Gibson esclamò: «Cosa intendi, bambina? Sposato? Osborne sposato? Chi lo dice?» «Oh, povera me! Immagino che non avrei dovuto parlarne. Oggi mi comporto davvero da stupida, sì.» Osborne è sposato da tanto tempo, ma lo Squire non l'ha saputo se non stamattina. Penso gli abbia fatto bene, ma non lo so. Chi è la signora? Beh, a parer mio è una vergogna andare in giro fingendo di essere scapolo ed essere invece sposato per tutto il tempo. Se c'è qualcosa che mi disgusta è la doppiezza. Chi è la signora? Dimmi tutto ciò che sai a riguardo, fai la brava. È francese e cattolica, spiegò Molly. Francese, sono donne così accattivanti. E lui è stato a lungo all'estero. Hai detto che c'è un figlio? Un maschio o una femmina? Non l'ho saputo, non ho chiesto. Molly non ritenne necessario fare di più che rispondere alle domande. In effetti era già abbastanza preoccupata per aver rivelato qualcosa che il padre aveva evidentemente considerato opportuno mantenere segreto. Proprio in quel momento Cinzia entrò ciondolando nella stanza, con un'espressione distratta e senza speranza, che Molly notò immediatamente. Non aveva sentito che Molly era arrivata e non aveva idea che fosse tornata fino a che non la vide seduta lì. «Molly cara, sei tu. Sei benvenuta, come i fiori di maggio, anche se non sei stata via neanche 24 ore. Ma la casa non è la stessa quando non ci sei. E ci porta anche delle novità», commentò Mrs. Gibson. «Sono quasi felice che tu abbia scritto allo Squire ieri, perché se avessi aspettato fino a oggi, pensavo che all'epoca avessi troppa fretta, lui avrebbe potuto credere che tu avessi qualche ragione interessata per rompere il fidanzamento. Osborne Hamley è stato sposato per tutto questo tempo all'insaputa di tutti e ha avuto anche un figlio.» «Osborne sposato!» esclamò Cinzia. Se mai un uomo ha avuto l'aria dello scapolo, quello era lui. Povero Osborne, con quella sua bella e delicata eleganza. Sembrava così giovane, così infantile. Sì, è stato proprio un bell'imbroglio e non posso perdonarlo con facilità. Pensateci. Se avesse prestato all'uno o all'altra di voi delle particolari attenzioni e voi vi foste innamorate di lui, beh, avrebbe potuto spezzarti il cuore, o quello di Molly. Non posso perdonarlo anche se è morto, poveretto. Beh, visto che non hai mai prestato a nessuna di noi delle attenzioni particolari, e giacché nessuna di noi si è innamorata di lui, penso che possiamo solo sentirci dispiaciute per il fatto che abbia dovuto sopportare tutta la difficoltà e la preoccupazione del segreto. Cinzia parla in nome del ricordo, molto chiaro di quanta difficoltà e preoccupazione il suo segreto le fosse costato. E ora naturalmente c'è un figlio che sarà l'erede e Roger sarà più spiantato che mai. Spero che tu ti preoccuperai di informare lo Squire che Cinzia era totalmente all'oscuro dei fatti che si sono scoperti quando ha scritto una di quelle lettere a Molly. Non mi piacerebbe che su qualcuno a cui sono legata pesasse il sospetto di venalità. Non ha ancora letto la lettera di Cinzia. Oh, lascia che la porti a casa con me è ancora chiusa, disse Molly. Manda un'altra lettera a Roger, adesso, subito. Gli sarà recapitata insieme all'altra. Le riceverà entrambe quando arriverà al capo e fagli capire qual è l'ultima, quella vera. Pensaci. Saprà della morte di Osborne e contemporaneamente due notizie così tristi. Fallo, Cinzia. No, mia cara, intervenne Mrs. Gibson, non posso consentirlo, neanche se Cinzia si sentisse di farlo. Chiedere di rifidanzarsi con lui. In ogni caso, lei ora dovrebbe aspettare che lui le faccia una nuova proposta e vedremo come andrà. Ma Molly teneva gli occhi supplichevoli fissi su Cinzia. No, rispose Cinzia fermamente, ma non senza averci riflettuto. Non si può fare. Mi sono sentita più serena ieri sera di quanto mi sia accaduto per settimane. Sono felice di essere libera. Temevo la bontà di Roger, la sua erudizione e tutto il resto. Non faceva per me, non credo che l'avrei mai sposato, anche senza sapere di tutte queste storie maligne che circolano sul mio conto e che gli sarebbero venute all'orecchio. Cosicché si sarebbe aspettato che io gli dessi una spiegazione, che mi scusassi, che mi pentissi e mi umiliassi. So che non avrebbe potuto rendermi felice e non credo che sarebbe stato felice con me. Le cose devono stare come stanno. Preferirei diventare un'istitutrice piuttosto che sposarlo. Mi stancherei di lui tutti i giorni della mia vita. Stancarsi di Roger, si disse Molly. Capisco. È meglio così, rispose ad alta voce. È solo che mi dispiace per lui. E tanto. Ti amava molto. Non troverai mai nessuno che ti ami quanto lui. Molto bene, devo cogliere la mia occasione e credo che troppo amore sia piuttosto opprimente per me. Il mio modo di apprezzare è ampio, si estende in molte direzioni, non è affatto confinato a un unico innamorato. Non ti credo, obiettò Molly, ma non parliamone più. Ho pensato, ero quasi sicura che stamattina ti saresti pentita. Meglio così, ma adesso lasciamo perdere. Si mise seduta a guardare in silenzio fuori dalla finestra e il suo cuore doleva amaramente, senza che lei quasi sapesse il come o il perché, ma non sarebbe riuscita a parlare. Dopo un po', senza far rumore, Cinzia le si avvicinò. Sei arrabbiata con me, Molly? Cominciò a bassa voce, ma Molly si voltò di scatto. Io? Io non c'entro nulla con questa faccenda. Sei tu che devi giudicare. Fai ciò che ritieni giusto. Io credo che tu abbia fatto bene, è solo che non ho voglia di discuterne, di rivangare la cosa parlandone. Sono davvero molto stanca, cara. Ora parlò gentilmente e quasi non so cosa dico. Se mi vedi di malumore, non farci caso. Cinzia non rispose subito, poi disse: Pensi che potrei venire con te e aiutarti? Avrei potuto farlo ieri e tu dici che non ha aperto la mia lettera, perciò ancora non ne sa niente. E io sono sempre stata affezionata al povero Osborne a modo mio, sai. Non so dire. Non ho alcun diritto di parlare, replicò Molly, che faticava a comprendere le ragioni di Cinzia, le quali in questo caso non erano altro che dettate da un impulso. Papà sarebbe in grado di giudicare. Penso forse che tu faresti meglio evitare. Ma non badare alla mia opinione, io posso solo dire cosa vorrei fare al tuo posto. Era più che altro per il tuo bene che per quello di chiunque altro, Molly, spiegò Cinzia. Oh, allora no. Oggi sono stanca perché stanotte non ho dormito, ma domani starò benissimo e non sarei contenta se per il mio bene tu entrassi in quella casa in un momento così solenne. Ottimo, ribatté Cinzia. Quasi lieta che la sua offerta impulsiva fosse stata declinata. Si disse infatti, ripensandoci, dopo tutto sarebbe stato imbarazzante. Così Molly tornò sola nella carrozza, domandandosi come avrebbe trovato lo squire, chiedendosi quali scoperte gli avesse fatto tra le carte di Osborne e a quale risoluzione fosse giunto. Capitolo 53. Arrivi inattesi. Robinson apre la porta per far entrare Molly quasi prima che la carrozza si fosse propriamente avvicinata alla casa e poi le comunicò che lo squire aveva atteso con ansia il suo ritorno e più di una volta l'aveva mandato a guardare da una finestra al piano di sopra, da cui si poteva cogliere uno scorcio della strada sulla collina che collegava Hollingford e Hamley, per sapere se la vettura fosse in vista. Molly entrò in salotto. Lo squire era in piedi in mezzo alla stanza e l'aspettava. In effetti avrebbe desiderato uscire e andarle incontro, ma si era controllato al ricordo delle solenni regole di comportamento che gli impedivano di andare su e giù come al solito in una casa colpita dal lutto. Teneva un documento fra le mani, che tremavano per l'agitazione, e quattro o cinque lettere aperte erano sparse su un tavolo accanto a lui. «È tutto vero», esordì. «Lei è sua moglie». E lui è suo marito. Era suo marito. Questa è la parola giusta. Era. Povero ragazzo. Povero ragazzo. Mi ha costato moltissimo. In nome di Dio, non è stata colpa mia. Leggi questa, mia cara. È un certificato. È tutto regolare. Osborne Hamley sposato con Marie Aimée Scherer. Parrocchia e tutto, e testimoni. Oh, povero me! Sedette gemendo sulla sedia più vicina. Molly si accostò accanto a lui e lesse il documento legale, di cui lei non aveva bisogno per convincersi del fatto delle nozze. Lo tenne in mano dopo aver finito di leggerlo, in attesa delle prossime parole coerenti da parte dello squire. Infatti, egli continuava a parlare tra sé, pronunciando frasi smozzicate. Sì, ecco cosa deriva dal malumore e dall'irritabilità. Lei era la sola che potesse, e io sono sempre peggiorato da quando se n'è andata, peggiorato, peggiorato. E guarda a che punto siamo arrivati. Lui aveva paura di me. Sì, paura. Questa è la verità, paura. E questo lo ha costretto a tenersi tutto per sé, e la preoccupazione l'ha ucciso. Possono chiamarla malattia cardiaca. Oh, il mio ragazzo. Il mio ragazzo. Adesso l'ho capito, ma è troppo tardi e questo fa male. Troppo tardi, troppo tardi. Si coprì il volto e si mise a camminare avanti e indietro fino a che Molly non poté più sopportarlo. Ci sono delle lettere, disse. Posso leggerle? In un altro momento non l'avrebbe domandato, ma ora vi era indotta dall'agitazione che le era causata dal muto dolore del vecchio. Sì, leggile, leggile, rispose lui. Forse ci riesci. Io posso solo cogliere una parola qua e là. Le ho messe lì perché tu ci dia un'occhiata e mi dica cosa c'è scritto. La conoscenza che Molly aveva del francese contemporaneo non era buona come quella della lingua delle Mémoires de Sully, e nell'ortografia, nella grafia delle lettere, erano delle migliori. Però ella riuscì a tradurre in un buon inglese abbastanza colloquiale alcune innocenti frasi d'amore, di sottomissione alla volontà di Osborne, come se il suo giudizio fosse infallibile. E di fiducia nei suoi obiettivi. Piccole frasi in una lingua familiare che colpì il cuore dello squire. Forse, se Molly avesse letto il francese più speditamente, non l'avrebbe tradotto in parole così toccanti, domestiche, esitanti. Qui e là comparivano espressioni in inglese. Lo squire, spinto dal suo cuore affamato, le aveva lette in attesa del ritorno di Molly. Ogni volta che lei si interrompeva, lui la esortava: Vai avanti. Teneva il viso coperto e a ogni pausa ripeteva solo quelle due parole. La giovane si alzò per trovare altre lettere da parte di Aimée. Esaminando le carte si imbatté in una in particolare. L'avete vista questa, signore? Questo certificato di battesimo, leggendo ad alta voce, di Roger Stephen Osborne Hamley, nato il 21 giugno 1800, figlio di Osborne Hamley e Marie Aimée, sua moglie. Dammelo, ordinò lo squire con la voce ormai rotta e tenendo la mano desiderosa. Roger, sono io. Stephen è il mio povero padre. Morì quando non aveva raggiunto l'età che ho io adesso, ma l'ho sempre pensato come molto anziano. Voleva tanto bene a Osborne quando era piccolo. È bello che il ragazzo abbia pensato a mio padre Stephen. Sì, questo era il suo nome. E Osborne? Osborne Hamley. Un Osborne Hamley giace morto nel suo letto e l'altro? L'altro non l'ho mai visto e non ne ho mai sentito parlare fino a oggi. Deve chiamarsi Osborne, Molly. C'è un Roger, ce ne sono due veramente, ma uno è un vecchio buona nulla e non ci sarà più un Osborne, a meno che alla piccola creatura non sia dato questo nome. Lo faremo venire qui, gli troveremo una balia e faremo in modo che sua madre stia bene per sempre nel suo paese. È una promessa che manterrò, Molly. Sei stata brava a scoprirlo. Osborne Hamley. E se Dio mi farà la grazia, da me lui non udrà mai una sola parola arrabbiata, mai. Non avrà paura di me. Oh, il mio Osborne. Il mio Osborne. Proruppe. Lo sai adesso quanto è amaro e dolente il mio cuore per ogni parola dura che ti ha rivolto. Lo sai adesso quanto ti ho amato, figlio mio. Figlio mio? Dal tono generale delle lettere, Molly dubitava che la madre avrebbe acconsentito così prontamente come lo squire sembrava aspettarsi a separarsi da suo figlio. Le lettere forse non erano molto sagge, anche se questo Molly non lo pensò mai, ma un cuore colmo d'amore pronunciava parole tenere a ogni riga. Eppure non era da Molly esprimere questo dubbio proprio in quel momento. Piuttosto era tipico di lei soffermarsi sulle probabili grazie e sugli incanti del piccolo Roger Stephen Osborne Hamley. Lasciò che lo squire si interrogasse sui particolari di ogni singolo evento, fino a che non ne fosse esausto, aiutandola a formulare congetture. Ed entrambi, data la loro conoscenza imperfetta delle possibilità, concepirono le ipotesi più curiose, fantastiche e improbabili di verità. Così il giorno passò. E scese la notte.